Sì, ma la replica di Alberto Burgio mi ha confermato in un'impressione che da tempo avevo relativa al nostro dibattito e più in generale al dibattito in corso su queste questioni, e cioè che in realtà la vera discriminante, il vero elemento che ci divide poi sulle conseguenze è il giudizio sulla portata della trasformazione in corso e in particolare sulla portata dei tre elementi che Aldo Bonomi aveva posto in apertura. Quanto questi stiano cambiando le condizioni del conflitto, la natura del conflitto, il contesto del conflitto. Io ho l'impressione che effettivamente Alberto Burgio sia convinto che, nonostante la globalizzazione, nonostante poi a lui non piace nemmeno la distinzione fordismo-postfordismo, nonostante le trasformazioni dello Stato nazionale, nonostante tutto questo, poi in realtà i termini dei problemi non cambino di molto. Sì, sarà necessario ricostituire un po' più di forza, sarà necessario ridefinire in qualche modo il grado di radicalità del conflitto, ma le cose non cambiano granché rispetto al resto del Novecento e tutto sommato rispetto al resto della modernità. Io sono convinto invece che ciò che sta avvenendo è una trasformazione profonda, radicale, per certi versi epocale, nella quale si cumulano e si potenziano a vicenda diversi cicli di crisi, un ciclo di crisi breve, potremmo dire, 20-trentennale, che è il ciclo di crisi del movimento operaio del Novecento maturo, che è il ciclo di crisi dell'operaio massa, un ciclo più lungo, che è il ciclo di crisi che definisco del fordismo, che è quello emerso con la seconda rivoluzione industriale, con la centralità della fabbrica meccanizzata, un ciclo di crisi lungo, o notevolmente lungo, che è quello della politica moderna, emerso a partire dal 1848 e con la saldatura tra questione sociale e questione nazionale, e infine un ciclo di crisi lungo, o lunghissimo, che è quello dello Stato moderno, che è quello dello Stato che è emerso tra il 5 e il 600 attraverso un processo di conflitto verso l'alto e verso il basso, verso l'impero e verso la Chiesa, cioè verso i poteri multinazionali e verso il basso, verso i micropoteri feudali, per affermare il principio della sovranità nazionale. Io credo che sia questo oggi che sta saltando e che rimette in discussione i diversi problemi. Burgio può dirmela finché vuole, può raccontarmela finché vuole, ma questo discorso che lui ha fatto sulle regole, sui diritti, in qualche modo sui destini luminosi della marcia della modernità, fa comunque centro e perno sull'idea della statualità e dello Stato nazionale sovrano. Non esiste un'idea di diritto. O meglio, esiste, ma allora cadiamo nella distinzione politico-sociale a cui lui vuole sfuggire. Questo richiamo ai diritti, dal punto di vista retorico, assai efficace e utile. Ma cos'è un diritto? Cos'è un diritto? Un diritto nella teoria politica o è un diritto presidiato attraverso una forza sociale e quindi è un potere? O è una formulazione giuridica e un'attribuzione dei soggetti riconosciuta dallo Stato. Questi sono i due modi con cui la teoria politica parla dei diritti. Weber ne parla esclusivamente come attribuzione riconosciuta dallo Stato, come un riconoscimento alla persona che ha carattere generale, universale, perché è riconosciuta dall'ente sovrano e valido erga omnes e garantito da questo, ma appunto entro l'ambito di universalità dello Stato sovrano. Oppure il diritto è una prerogativa dei soggetti che può essere affermata solo attraverso la loro forza collettiva. Non esiste un'alternativa. E cosa diventa un diritto nel momento in cui emergono poteri ed entità sovranazionali, multinazionali, globali e così via? Noi possiamo riconoscere finché vogliamo diritti al livello dello Stato nazionale, possiamo riconoscere e lottare per il riconoscimento del diritto alla pensione, ma se poi l'economia generalizzata, che viene riconosciuta in qualche modo dai soggetti che si muovono all'interno della statualità come sovranità e che è sovrana, finché non emergono altre forme di organizzazione economica, e che è sovrana, perché definisce uno spazio che include quello dello Stato nazionale, che ridefinisce l'universalità dei diritti a livello dello Stato nazionale come parzialità. La dialettica particolare universale si presenta in forma perversa oggi. Ciò che era universale nello Stato nazionale e riconosciuto universalmente come diritto diventa particolare e subordinato nella logica dell'economia globalizzata e rimesso in discussione da sovranità più elevate. E d'altra parte, certo, possiamo organizzarsi per presidiarli quei diritti, ma per presidiarli con l'efficacia e la forza con cui avevano prima, occorrerebbe in qualche modo l'arma totale, occorrerebbe la bomba atomica. Di qui, io credo, emerge la contraddizione. Tu puoi dirmi, certo, presidiamoli questi diritti, ma con quale potenza, con quale forza, con quale capacità sociale? E allora di qui il problema di ripartire dalla definizione dei processi di riaggregazione, riaccorpamento, ricostruzione delle risorse, delle energie dal basso. Noi oggi possiamo fare l'elogio della modernità. Io ho molti dubbi che questa modernità sia così luminosa, così come le teorie moderne ce la presentano. Non possiamo anche partire dall'ipotesi che la nostra modernità sia positiva, totalmente positiva. Noi oggi ci troviamo di fatto in una condizione di rifeudalizzazione, perché non esistono strutture, apparecchi, leviatani capaci di sintetizzare la potenza sociale e trasformarla in garanzia dei diritti. Noi oggi siamo collocati in una condizione in qualche modo di rifeudalizzazione del mondo. Le oligarchie finanziarie e industriali globalizzate sono nuove oligarchie feudali senza il potere di un impero, e gli stati nazionali sono posti in condizione di feudi e contee in un contesto di questo tipo. Lo stesso discorso sulla critica regressiva o progressiva del capitalismo, ecco, sono termini che mi turbano proprio perché riconducono all'idea che esista in qualche modo una linea di sviluppo teleologicamente definita e la possibilità di graduare i punti di sviluppo su questa. L'idea stessa che il capitalismo abbia un ruolo progressivo, io non sono affatto convinto al livello di sviluppo che ha raggiunto oggi il capitale, che il capitalismo possa avere, continui ad avere, continui ad esercitare un ruolo progressivo, cioè che faciliti processi di emancipazione, processi di liberazione, processi di eguaglianza e così via. Io credo che oggi abbia acquisito forti connotati regressivi. Credo che se una profezia marxiana oggi entra in crisi sia proprio l'idea che lo sviluppo capitalistico contenga in sé inevitabilmente, in qualche modo naturalmente, la costruzione, l'elaborazione e la riaggregazione del soggetto destinato a superarlo. Credo che oggi noi verifichiamo sul piano della soggettività un effetto di scomposizione, di degradazione dei soggetti inclusi nello sviluppo capitalistico, che non produce affatto gli eredi della filosofia classica tedesca, che produce masse di inclusi stravolti e sfigurati dalla divisione del lavoro capitalistica, burocratizzati, prosciugati della loro umanità all'interno dei meccanismi tecnici, rispetto ai quali occorre immaginare processi di liberazione più che dentro e contro, che ipotizzino la ricostruzione fuori e contro. E non puoi dirmi a questo livello che è di per sé regressiva la proposta di costruire fuori e contro dal capitale modelli di società, modelli di aggregazione, modelli di relazioni diversi, perché solo lo sviluppo del capitale è di per sé progressivo. Questo dicevi Alberto, questo dici quando dici che chi ipotizza forme di riaggregazione microcomunitarie capaci di interagire tra locale e globale, eccetera, è di per sé il portatore di una critica regressiva del capitale, no? Questo io credo che tu dicessi. Un'ultima battuta, perché siamo divorati dalle zanzare ed è tardi. La questione del passaggio dal mutualismo alla sicurezza, al sistema sanitario nazionale, a sistemi di sicurezza sociale nazionale. Tu, Alberto, dici non è stata una conquista questa. Io ti rispondo sì, è stata una conquista. ma è stata una conquista pagata a caro prezzo, pagata a mio avviso troppo a caro prezzo. È stata una conquista in termini di universalità dell'accesso a livelli parziali di sicurezza, la quale è costata enormemente in termini di autonomia, di capacità di autogoverno della propria vita quotidiana, di capacità di controllo sulle condizioni della riproduzione della propria vita quotidiana. È stato un meccanismo che ha portato a delegare totalmente a meccanismi burocratici impersonali le forme di gestione della nostra persona in qualche modo, e che ha provocato una strage di capacità e di autonomia, di capacità di controllo dei processi di riproduzione da parte del proletariato. Il Novecento è un secolo di regresso dal punto di vista del controllo individuale e collettivo sulle condizioni della propria riproduzione. E io credo che ci siano forme più efficaci di far pagare ai ricchi la sicurezza dei poveri, senza con questo costringere i poveri a diventare da protagonisti sudditi, a diventare utenti. E credo che questo meccanismo consista nella possibilità di sottrarre risorse sociali, a cominciare dalle risorse tempo, a cominciare dalla questione dell'orario di lavoro, ai meccanismi della valorizzazione del capitale, e trasferire queste risorse ai processi di auto-organizzazione, di autogestione di massa, in qualche modo, nel sociale. Credo cioè che esista una via diversa alla via burocratica, alla socializzazione, che è stato l'elemento forte, centrale, fortemente consustanziato all'idea della statalizzazione, e credo che questa sia la via da perseguire oggi.